Hai visto che mi ricordo del tuo nome, una volta mi hai punzecchiato talmente bene che me la sono sentito il mio mezzo culetto tutto gonfio il giorno dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Chi ha mangiato la torta? Andreotti! Chi ha permesso il calo della borsa? Andreotti! Ma lasciate il giorno che morirà Andreotti, finalmente gli toglieranno la scatola nera dalla gobba e finalmente sapremo! Sapremo com'è andata a finire, Dio mio! Ma cosa ti inventi qua? C'è dietro la piovra! Andreotti! Siamo tutti pieni di pregiudizi, convinti di pulir l'Italia da tutti i vizi. Giulio, ti salverò! Da sempre dei politici se ne dice piuttosto male, perché sono elementi su cui ci si deve divertire. In fondo, prima abbiamo parlato delle tasse, quelli che mettono le tasse non è che succede entusiasmo. Ma, no, no, qualcuno l'ammazzerebbe proprio, onore, adesso non volevo dirlo, ma no, tanto, non potevi dire. Tanto per un altro le mette lo stesso, questo non certo. Sarebbe assolutamente non ha importanza. Caro Parenzo, se ne sentono di tutti i colori in queste ore, se ne sentono di tutti i colori. Si va da Giancarlo Caselli che dice semplicemente ebbe rapporti con la mafia, punto, fino al 1980, a chi naturalmente loda il grande statista, l'uomo che fece l'Italia, eccetera, eccetera. Una deputata dei 5 Stelle, una tale Sarti, quella delle email hackerate, no? Giulia Sarti, una giovane. Sì, una delle persone che hai contribuito a mandare in Parlamento. Sì, d'accordo, sono d'accordo. Sì, una delle persone che ho contribuito a mandare in Parlamento, anche se non l'ho eletta direttamente, perché io voto in Lombardia, dunque ho portato crimi in Parlamento, al Senato. Ho portato al Senato crimi, ma non, potrebbe anche essere una colpa grave, non lo so. Comunque, questa Giulia Sarti scrive con semplicemente questa cosa: condannato prescritto per mafia, con mafia in grassetto. Come fece Balilla, che un giorno perse il controllo. Le male lingue, io rapiderò. Cari ascoltatori della Zanzara, siamo qui anche questa sera. 800 24 00 24. Ancora non ci hanno cacciato, caro Parenzo, però siamo però qui. Comunque il titolo più bello di oggi, sì, su questa vicenda. Quale vicenda? La morte di Andreotti, che è una vicenda. Lo avrai visto sicuro. Qual è? Il fatto quotidiano.it, magistralmente diretto da, vabbè, Peter, dai, Comet, forza. Che ha messo la foto di Andreotti e ha scritto rinviato a giudizio. Stupendo. Vabbè, una boldrinata al giorno ci vuole, una boldrinata al giorno. Ora, uno non è che fa il presidente della Camera e deve per forza parlare. Vabbè che il lavoro è quello che è alla Camera, non è che sia di questo grande impegno, diciamo, non è che uno si spacca di lavoro dalla mattina alla sera. Dunque, diciamo, Laura Boldrini, presidente della Camera, deve per forza inventarsi qualcosa ogni giorno, qualcosa di nuovo, un'esternazione al giorno. Dopo la vicenda di Preiti, adesso tocca alle donne, alla famosa strage delle donne, al femminicidio. Il femminicidio. Perché devi sapere, caro Parenzo, io mi metto a ridere quando sento queste cose, che qualcuno ha pensato, il ministro quello italo-tedesco, la, come si chiama, la canoista, la Idem, la Josefa Idem, la campionessa olimpica, sì. Ha pensato di istituire, scusate se vi ammorbo con queste cose, cari ascoltatori, di istituire una task force. Beh, contro il femminicidio. Ma cosa vuol dire? La gente per strada che sta guidando, tassisti, camionisti, gente normale, gente con le cuffie, una task force contro il femminicidio. Vabbè, ma che c'è? Trattasi di delitti, punto, c'è il codice penale, non ci vuole nient'altro. L'Italia da tutti i vizi, Giulio ti salverà. tante troppe donne sono oggetto di violenza, sono oggetto di violenza a ogni livello, una violenza che si estende appunto dalle famiglie, che si estende fuori dalle famiglie, che arriva anche al web, e dunque è importante attenzionare questo odiosissimo fenomeno e cercare di dare risposte adeguate. Quindi fa bene la ministra idem a proporre una task force. La crisi, poi senti quest'altra, la crisi fa saltare il rapporto tra uomo e donna. Io appena ho letto questa cosa non ci potevo credere. La crisi, cioè la crisi economica, la crisi economica, voi che ci ascoltate, fa saltare il rapporto tra uomo e donna. Vi prego, ascoltate. La crisi esaspera gli animi e anche fa saltare i rapporti di coppia tra uomo e donna, e la violenza contro le donne aumenta quando gli uomini anche perdono lavoro e quando perdono il loro ruolo. Dunque è un altro aspetto collaterale della crisi. L'aspetto collaterale della crisi. Il rapporto uomo, che stiamo a un simposio, a un convegno di sociologia, a un convegno di professori, è il presidente forse della Camera, perché tema, bisogna tu... perché bisogna per forza parlare? Perché? Sarò il tuo Don Quixote. Abbiamo già un ospite collegato, fra poco lo chiamerò, caro Parenzo. Beh, prima però sicuramente persone di aspetta, primissimo piano aspetta, per commentare, stai calmo, non ci sono notizie da commentare, questo fa parte di un modo vecchio di intendere le trasmissioni, vecchissimo. Ma hai visto le iene sui furbetti del Belgio al Senato? Come no, so, ha visto che anche Grasso li ha ringraziati. Senti cosa succede fuori dal Senato, i furbetti del Belgio, o Baggio, come cazzo si chiama, non mi ricordo mai. Ha timbrato gli al Senato, tutto a posto, ha beggiato? Io? Mi dica che cosa... Dico, lei ha beggiato, anziché stare in ufficio, perché sta qui a piar caffè? Prendo il caffè e entro. Ma non potrebbe fare il contrario, prendere il caffè e poi beggiare e entrare in ufficio? Voi dipendenti del Senato, ci avete pure la quindicesima, ma chi ce l'ha la quindicesima? E fate ste furbate? Ma non è le furbate, non so furbate, prima di entrare mi sono preso un caffè, c'ha ragione, ho sbagliato, volevo prendere pure lì direttamente, lì... Guardi, non è l'unico, per... No, ma veramente, è un minuto, io entravo subito. Un minuto oggi, un minuto domani, sa quanto tempo di lavoro viene rubato, proprio stato? Ho sbagliato, c'ha ragione, basta, che gli devo dire? Buongiorno, buon lavoro. Sbagliato manovra. Cioè, questi qua guadagnano in media 150.000 euro l'anno, tot volte in più di qualsiasi dipendente pubblico, eppure fanno i cazzi loro, cioè entrano, beggiano e riescono fuori, vanno a prendere il caffè, vanno in chiesa a fare la spesa, eccetera, eccetera. E io pago. Arrivo, caro ospite, un attimo solo, devo fare scaldare un po' la platea, Devo fare scaldare la platea. Con che la facciamo scaldare la platea? No, dopo, mi suggeriscono una cosa, dopo. Beh sì, Brunetta che attacca Letta, dice perché Letta non ha ripreso pure Fassina? Perché ha ripreso solamente la Biancofiore e gli ha tolto le deleghe sulle pari opportunità? Sentiamo, Brunetta, In cosa può essere rimproverata l'onorevole Biancofiore? No, semplicemente in cosa può essere rimproverata? No, semplicemente questa richiesta di sobrietà fatta chiaramente da Letta, sembra che con questa serie di interviste rilasciate ai quotidiani lei abbia un pochettino non abbia rispettato, insomma, quello che era l'auspicio di Letta all'inizio. Scusi, perché non ha fatto la stessa richiesta di sobrietà a Fassina? Chiedo scusa, non ho sentito. Non ho sentito. Perché non ha fatto Letta? Perché non ha fatto la stessa richiesta di sobrietà? Questa è una bella domanda che può fare lei a Letta, visto che ha rapporti quotidiani. No, siamo qui 800 24 00 24. Non ha tutti i torti però in questo caso Brunetta, cioè, perché in realtà viene colpita la Biancofiore, che sono state tolte le deleghe, perché non Fassina, che ha fatto delle critiche molto più forti. Siamo con Massimo Fini, giornalista, buonasera. Come va? Malissimo. Che è successo? Che è successo? Niente. Sta male? No. No, è che... Che devo dire? Bene, no? Mal di testa? No, infatti è male. Perché? Mica uno deve dire... No, male, però se uno risponde... Malissimo, addirittura. È curioso. Vabbè, senta, ma esiste il femminicidio secondo lei? La strage delle donne, il femminicidio, esiste o no? Ma come reato a parte, no, di sicuro, perché... lederebbe il principio di uguaglianza dell'articolo 3 della legge, della Costituzione, quindi... l'uccisione di un uomo o di una donna ha pari valore, naturalmente. Esiste casomai un aggravante per l'infanticidio. Sì. Quindi lo troverei non stravagante, ma totalmente illegittimo istituire un reato di femminicidio. E poi che cos'è questa task force? A cosa potrebbe servire una task force contro il femminicidio? Mi aiuti lei? Questo non lo so, intanto bisogna capire se è una task force del Ministero degli Interni. Ma che ne so. O se è una cosa tipo ronde della Lega. Ma come ronde della Lega? Ecco, non lo so. Lei dice le ronde per controllare che le donne non vengano stuprate, esatto, in giro, no? Ecco. Allora, invece c'è una particolare attenzione al fatto che questi soggetti possono incorrere più facilmente in violenze, non ci vedo niente di straordinario. Ma sì, vabbè, ma insomma sono tutte cose. Vabbè, sa, voi dicevate prima che sulle dichiarazioni di questo, di Fassina, piuttosto di quell'altro, eccetera. Beh, io cioè c'è il fatto che ci sono tutte queste trasmissioni televisive a cui questi vanno tutti, sono ormai infinite, in cui questi vanno tutti i giorni e parlano, e allora si crea una confusione incredibile. Io credo che i parlamentari dovrebbero parlare in Parlamento. E che noi saremmo morti però in questo caso. Come? Noi potremmo anche chiudere bottega, la Claire, tirare giù la Claire, tum. Lo so, è un rischio, lo so, lei ha ragione. È un rischio. La cosa riguarda molto più la televisione che la radio, per la verità. Sì, è vero, è vero. Ecco, è vero. La radio non so. Però, guardi, c'è una nuova cosa della Boldrini di oggi, del Presidente della Camera. Allora, senta questa, sentite, cari ascoltatori. Secondo la Boldrini bisogna mettere un limite all'utilizzo del corpo delle donne nella comunicazione. Cioè, le multinazionali fanno la pubblicità con le donne solo in Italia e non in altri paesi. Una donna oggettivizzata, resa cioè oggetto, la si tratta come si vuole, relativa violenza è un passo. Cioè, praticamente bisogna porre dei limiti all'uso del corpo delle donne in pubblicità, perché praticamente dalla pubblicità del corpo della donna si arriva alla violenza. Ma io dico, ma perché? Perché aprire la bocca e dare fiato quando uno non collega il cervello? Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Quando il giorno scivola via si svegliano per me. Quando tutto sembra poesia. Io senza poter dire niente, perché non ho i soldi per pagarmi gli avvocati per 20 anni, perché quello è piccolino e pure carogna, sposo in pieno le parole di Dario Fo e non aggiungo altro. Mi adorano perché abbandono il mio corpo. Questo era il mitico Storti la settimana scorsa sulla Zanzara. 800 24 00 24. Massimo Fini, c'è un rapporto secondo la Boldrini tra la pubblicità che vedete tutti voi, le donne in pubblicità, e la violenza. Mi dica qualcosa, la prego, di definitivo su questo. Di definitivo non c'è mai nulla, lei lo sa benissimo. Beh, che noi viviamo una cultura che è fatta di queste cose. Non a caso, non so, la cultura islamica è molto più prudente su questo. La nostra è questa cultura qui della libertà, e la libertà porta a questo. Ho capito, ma anche secondo lei i nudi portano alla violenza? Scusi, i nudi delle donne portano alla violenza sulle donne? No, non mi dica questo, che non ci credo. Ma no, non è che portano alla violenza, è un uso molto spregiudicato del corpo della donna, del tutto legittimo in una società individualista come la nostra. Quindi ce la teniamo. Ma non è che uno stupra un'altra persona perché vede una pubblicità. Ma con no, una ma non è un collegamento. Non credo che la tipa abbia fatto un collegamento. La tipa, il presidente della Camera, sì. Così diretto. È ovvio che continuare, anzi, secondo me, provoca l'effetto esattamente contrario. Cioè? E cioè, questo continuo sbattere il corpo femminile dappertutto fa sì che uno non abbia più alcun desiderio. Insomma. Ah, Parenzo, anche a te succede questo? A no, Parenzo in modo particolarmente grave, lo so. A Massimo Fini piacciono le donne con il burka. Beh, sono fattacci suoi. Io francamente, cioè, l'orgoglio dell'Occidente è la minigonna e la libertà dei corpi. Se a Massimo Fini non piace la gnocca e gli piace la persona col burka, sono fattacci di Massimo Fini, che elogia i talebani, che elogia il mondo, come dire, castigato. il mondo no, mondo però la questione era un'altra. Io ho detto che sono due mondi e due culture diverse. Sì, però la questione era un'altra. Sarà una scelta tra le due. Parenzo, Fini ha detto le donne nude, i cartelloni pubblicitari, eccetera, eccetera, provocano che cosa? Provocano addirittura una certa, no? Un calo dell'attrazione sessuale. Per me non sta nel cielo né in terra questa cosa qua. Succede anche a te la stessa cosa, caro Parenzo? Ma no, ma assolutamente. Comunque, scusate, sì. C'è un terzo della popolazione maschile, sì, che ha problemi di erezione, così almeno, sì, dicono le, e allora? Le statistiche. Beh, ma questo che c'entra? E beh, ci sarà qualche ragione, cerchiamola, no? Cioè lei dice, più nudo c'è in giro... Ma più... ovvio, ma voglio dire, ma questa è una roba elementare, cioè? Quando le donne avevano un minimo di sapienza... Non è che ti facevano vedere tutto, facevano il vedo e non ti vedo. Quando, sì, vedi tutto è già finito il gioco. O cioè no? Lei dice i problemi di erezione sessuale che ci sono derivano dal fatto che c'è troppa roba in giro. Anche da questo. Anche. Le anche. Teorie di Fini, una cosa meravigliosa. Ma come troppa roba in giro? Ma che ne so, io non lo so. Poi, cosa? No, dice Parenzo. No, che... ma io lo adoro Massimo Fini, mi piace moltissimo, ma anche lui non può sostenere che c'è questa timidezza per cui all'uomo non gli diventa, diciamo, c'ha problemi di erezione perché c'è troppo mercato. Ma chi l'ha detto? Ma dov'è? Anzi, ma scusa, se tu mangi, sì, un pezzo di marzapane è buono, se ne mangi un chilo ti cominci a rigettare, ma no? Capito, ma mi piace anche vedere in vetrina molto marzapane, se tu ma non vuoi neanche passare. Saranno, questi sono fatti tuoi come sono fatti i miei. Qui stiamo, scusi, Fini, lei sostiene questa cosa qua, che troppe donne portano a un'eccessiva masturbazione, dunque l'eccessiva uso delle... No, dico che un eccesso di nudo fa, come si sa da sempre, sì, non è una cosa, fa calare il desiderio. Il desiderio, perché il desiderio è di sbucciare l'inquietante caramella e vedere cosa c'è sotto. Se sai già quello che c'è sotto, se vedi già quello che c'è sotto, sì, il desiderio diminuisce. Questa lei è rimasto un uomo antico. Senta, Fine, a proposito... Io sono del pleistocenico, guardi. Scusi un attimo, la vicenda Andreotti la colpisce? Anche secondo lei l'unica cosa da ricordare è quel 1980 prescritto mafioso? Ma va. Rapporti con la mafia, ma che ne Andreotti so. Qualcuno... è stato un grandissimo ministro degli esteri in un'epoca molto difficile in cui l'alleanza con gli Stati Uniti era obbligatoria perché c'era l'orso sovietico e atomico. Sì. È riuscito a fare una politica di appeasement con i paesi arabo-musulmani. Cosa che a lei piace molto, evidentemente. No, ma è semplicemente una questione di autodifesa. Cioè lei non ricorda quel 1980, quella data? I rapporti con la mafia li hanno avuti tutti. Anche l'integerrimo Ugo La Malfa, ecco, sì. E li aveva attraverso il suo uomo di mano in Sicilia che si chiamava Gunnella. Sì. E i rapporti con la mafia noi li scontiamo perché durante la guerra, sì, la mafia aprì la Sicilia agli angloamericani. Mm. Dopodiché dovemmo pagare dei prezzi alla mafia, la mafia naturalmente si è rafforzata, sì, e la politica ha dovuto farci i conti. Questo non riguarda il solo Andreotti, però riguarda tutta la politica italiana. Senta, Fini, un'altra cosa, ma gli attacchi di questi giorni da parte della Lega nei confronti della signora Chieng, la nuova ministra che vuole lo ius soli, l'abolizione del reato di clandestinità, come li trova? È stato sbagliato mettere la Chieng a quel posto, secondo lei? Ma io non sono, grazie a Dio, non sono il presidente del Consiglio. Sì, d'accordo. Ecco, sullo ius soli io sono d'accordo, per esempio negli Stati Uniti c'è, se tu nasci, sì, in America sei americano. Diversa è la questione dell'ingresso clandestino delle persone, sono due problemi completamente diversi. Ma è stato sbagliato mettere la Chieng, secondo lei, è la persona giusta oppure è semplicemente una bandierina lì, hanno messo una persona di colore così per fare un po' di scena? Ma per la verità l'hanno fatta in vari modi, nel senso che ha messo sette donne comunque come se questo fosse... di per sé un fatto di merito. Hanno fatto un manuale Cencelli che neanche all'epoca appunto di Andreotti si faceva in questo modo. Questo governo a me non piace, ma per altri motivi. Sì, non per la Chieng, non per la presenza della Chieng. No, perché è la classe dirigente che ha distrutto di destra e di sinistra, che in 18 anni, 20, ha distrutto questo paese socialmente. Che si è trovata insieme, dice economicamente, che adesso pretende di essere quella che ricostruisce, perché ha capito che naturalmente stava per cadere il tetto, gli stava cadendo addosso, è per questo che va rifiutata questa storia e per questo Grillo ha ragione, no? Grazie Fini, a presto. 18:54, ci sentiamo dopo il giornale radio. 800 24 00 24, siamo qui, non siamo morti. Questo continuo sbattere il corpo femminile sul dappertutto fa sì che uno non abbia più alcun desiderio. Apparenzo in modo particolarmente grave, lo so per esperienza. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo che, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist, la zanzara twist. Il giorno che morirà Andreotti finalmente gli toglieranno la scatola nera dalla gobba e finalmente sapremo! Sapremo com'è andata a finire, Dio mio! Ma cosa ti inventi qua? Siamo qui, 800 24 00 24. Voglio subito chiamare Massimo da Firenze. Parenzo, ci sei? Certo che ci sono. Eccoci. Pronto a battagliare e dando un saluto a tutte quelle maestranze, a quelle compagne, a quei compagni. Ma cosa? Che ieri hanno lavorato per quello straordinario. Ma mi lasci parlare con Massimo da Firenze, per favore, invece di raccontare queste stronzate. Fammi parlare con Massimo da Firenze, dai, su. Va bene, dai. Massimo, dai, forza. Dai. Cruciani, buonasera. Senti, genio. Sì. Senta, mi volevo riallacciare al ragionamento che ha fatto con il professor Becchi riguardo al prete. Quindi le volevo dire, la nostra classe politica è una classe politica un po' strana, perché non ho mai sentito un momento di riflessione. Su che cosa, Massimo? Di autocritica sul fatto di aver provocato, l'opinione pubblica, perché... Ancora fusi, con queste provocazioni? Bamboccioni. Ma cosa c'entra questo con i fucili? Cosa c'entra con le armi? C'entra perché la gente è già incazzata di suo. E allora? Perché non sa come fare e andare avanti. Sì, no? Dunque? Se poi vede questa gente che è piena di privilegi, piena di soldi, prende degli stipendi eccessivi, che prende per il culo, poi si incazza, no? Ah, e dunque prende il fucile o prende la pistola e spara un carabiniere in testa, è normale, no? No, è probabile, è logico che provocando alla fine uno si incazzi. Capito, Parenzo? Mi pare un ragionamento logico, no? Sì, ma logico, hai dato spazio alle 19:20. Non è che il signore dice, guardate, continuate a prendere per il culo gli italiani. Eccolo. Che così che tanto sono pecore, no? Certo, non c'è dubbio. Giusto. Mi faccia solo capire una cosa, Massimo da Firenze. È da Firenze lui, no? Sì, da Firenze, certo. Ecco, faccia solo capire molto velocemente una cosa. Lei ha ascoltato la trasmissione, ha preso il telefono, ha composto l'800 24 00 24 per dire questa approcciata. Ho chiamato il 118 per mandarglielo a lei. Massimo, dunque, lei si è incazzato, si sente autorizzato a prendere il fucile in mano, si sente autorizzato a prendere la pistola semplicemente perché uno usa la parola bamboccione, eccetera, eccetera. Io dico, se no mi fa dire una cosa che non ho detto. Ah, beh, allora. Allora, sai. Grillo, secondo voi, guida la rivolta popolare perché... Ma chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Chi lo sostiene? Lo sostengono gli avversari politici. Vabbè, allora, di Grillo. Dunque, Massimo... Quindi farebbero meglio a dire, guarda, abbiamo sbagliato. Sì. Se non avessimo aggredito i ciusi, i bamboccioni, forse era meglio pagare le tasse bellissime. E allora? Se lo ricordo. E allora? Dunque, se uno sente queste frasi, prende una pistola e spara un carabiniere in testa. Oppure, come dice il professor Becchi... il carabiniere, poverino, non c'entra nulla. No, però un politico si può sparare. Nemmeno. Allora che cosa però, c'è? Però... Non bisogna nemmeno, siccome le parole sono pietre, no? Sì. Sono pietre quelle del Becchi, ma sono pietre anche quelle della Fornero, per capirsi. Sì, ma certo, ci siamo capiti. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Si è spento nella sua casa romana Giulio Andreotti, aveva 94 anni, 7 volte capo del governo, 22 volte ministro. Al TG3 il ricordo di Emanuele Macaluso. Divenne l'immagine della DC, del potere, ma anche della trattativa e del compromesso, una carriera da statista tra politica e misteri italiani, divo o Belzebù. Draghi, risanare i conti, tagliare le spese e le tasse, la pressione fiscale è già elevata, la disoccupazione aumenterà, si rischiano proteste estreme. Letta all'Expo, per la ripresa serve un po' di follia visionaria, possiamo crescere senza indebitarci, missione europea a Madrid, l'incontro con Rajoy. Imprese in allarme per l'ipotesi di una stretta fiscale che copra lo stop dell'IMU a giugno, le preoccupazioni dei sindaci, Pisapia, ospite del TG3. Domani il voto per i presidenti delle commissioni parlamentari, ancora braccio di ferro fra PD e PDL, soprattutto per giustizia e comunicazioni. Respinta dalla Cassazione l'istanza della difesa di Berlusconi per lo spostamento dei processi Ruby e Mediaset da Milano a Brescia per legittimo sospetto. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Siamo qui e vorrei chiamare in causa Parenzo Alice da Torino. Alice, buonasera. Non vuoi sentire qualcuno al supermercato? Alice, perché sei al supermercato, scusa, Parenzo? Al supermercato, tra l'altro, con un radioascoltatore qua dietro di me che proprio mi diceva di Cruciani che è un cretino. Sì, io benissimo. Cosa stai facendo al supermercato, scusa? Sto comprando due hamburger e un'insalata di queste... Sì. Ma non è il caso che lavori fermo in un posto normale, eccetera, oppure vuoi essere itinerante tutta la sera? Non ho capito. Beh, anche bello perché si incontra la gente. Sì, si incontra la gente, certo, sì, certo. Hai Alice, l'opportunità di... Dica, Alice, dica pure. Allora, due cose. La prima è, prima ho telefonato piena di rabbia perché sentire Cruciani dire questo femminicidio, la Boldrini, spreca tempo. Però, lo confermo. Sì, lo so che lei è un provocatore. Ma non sono un provocatore, è quello che penso. È quello che penso. Non è possibile. Allora, io la trago cosa da, non è possibile? Ma cosa non è possibile? Da membro di un comitato che si occupa del problema della violenza sulle donne nel benissimo, mondo, ma lei... di sollecitare gli animi a far capire che questo problema esiste. Ma certo che esiste, chi dice che non esiste? Chi sostiene che non esiste? Lei non ha capito. Lei prima, Fini, il femminicidio esiste? E Fini ha risposto come reato a sé? No. E questo... Lei ha fatto proprio questa domanda. Certo, esattamente. È per quello che ho chiamato piena di piena di ira. Di ira, ed è spiacevole avere ira, perché no, ovviamente... perché ogni tanto un sentimento... Sì, però è di questo periodo l'ira viene troppo giustificata, allora... prima c'era il suo... Allora le dico che il problema esiste, è grande, e ben venga che la Boldrini sottolinea il fatto che c'è questo problema, perché gli italiani purtroppo odiano le donne. Ah, gli italiani odiano le donne. Adesso tutto facile. Questo suo ragionamento, c'è questo problema e gli italiani odiano le donne. Alice... No, il problema c'è... Allora, Alice, non mi faccia parlare, Il problema esiste in tutto il mondo, è vergognoso in alcuni stati come le donne vengono considerate. Guardi, signora Alice, il problema è molto semplice, la signora Boldrini ha detto... No, vabbè, se non ci faccia il pippardone, però non ci faccia il pippone sulla violenza sulle donne. Lo sappiamo, c'è la violenza sulle donne. Benissimo, è un problema. Dopodiché, il corpo usato nella pubblicità che provoca violenza è una cretinata. Lo vogliamo dire che è una cretinata? Altrove, perché vuole farsi i cazzi suoi. È un problema. Ma chi? Molto italiano. È un problema italiano, molto benissimo. Molto italiano. Bene. Il fatto che abbiamo avuto il governo... E perché non se ne va? Perché non se... Vado a vivere in Norvegia, allora, no? Maschi e le battute a sfondo sessuale non ci siano mai state. Adesso abbiamo un po' di donne al governo. Buono cattive, lasciamo perdere. E quindi battute a sfondo sessuale, cattiveria, insulti, guardi che le violenze nei confronti delle donne esistono anche in paesi apparentemente molto civili come la Svezia, eccetera. Ma guardi, infatti purtroppo l'essere umano non si è ancora reso conto. Arrivederci, grazie. Renato da Bergamo. Adesso ci sta per fare il pippone sull'associazione sul femminicidio. Renato da Bergamo, l'ho stoppato in tempo. Renato? Sì, pronto. Vada. Ah, buonasera, c'è un Cruciani. Sì, vada. Non lo so, non mi farà piacere quello di Roma, mi scusi. Sì. Ma sentendo il vostro programma negli ultimi giorni ho l'impressione di vedere Nerone con la lira in mano e il suo giullare lì in parte. Giullare, sì. Che suonano giullare. E si divertono guardando Roma che brucia. E cosa sarebbe? Roma che brucia rappresenta chi? L'Italia? L'Italia che brucia. Sì, e noi saremo Nerone e lo schiavetto chi è? Parenzo? E il giullare in parte. Sì, giullare, benissimo. E allora? Beh, insomma, l'idea potrebbe anche essere... No, è una bella immagine. Pensavo che volesse saperlo. Sì, no, se lei me lo vuole comunicare, lo... Sì. Secondo me ha forato quando ha detto che in Italia non c'è gente che patisce la fame. Ma io non ho mai detto questo. Sì, vabbè, c'è gente che patisce non la fame. Non so se la sua era I poveri esisteranno sempre. I poveri esisteranno sempre. Gianmario dalla provincia di Cuneo, buonasera. Non è possibile eliminare la povertà, è possibile limitarla. Gianmario dalla provincia di Cuneo, dare possibilità alle persone di farsi ricche. Gianmario dalla provincia di Cuneo, dica. Buongiorno, la sento. Vada. Buonasera. Sì. È da tanti anni che io l'ascolto, però devo dire, sì, che ultimamente lei ha preso una brutta piega, sì, molto maleducato. Effettivamente ho una brutta piega ai capelli oggi, mi sono venuti un po' male. Questi saranno fatti i suoi. Sì, lo so, sì, purtroppo è un problema, è certo. È meglio di prima di uscire. Sì, lo so, infatti devo comprare un pettine più degno. E quindi sì, lei è molto maleducato con gli ascoltatori. Sì. Però un'altra cosa, è molto sgarbito con i politici. Sì. Come la mette? Come la metto? La metto che do la parola alla pubblicità e poi alla borsa. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Vi voglio bene. Vado a stare svegli per amare. Vado a stare svegli per soffrire. Ma che fastidio, che fatica a sopportare di notte le zanzare. Beh, sentite, caro Parenzo, cosa diceva fino a poche settimane fa il neo vice ministro all'economia Stefano Fassina. La frase è piuttosto significativa per far capire a chi ci ascolta, caro Parenzo, i travagli del Partito Democratico, la situazione in cui si è ficcato questo partito. Sentite, Fassina mai con Berlusconi che compra i parlamentari. Noi, un governo con un partito guidato da Silvio Berlusconi, uno che convoca i parlamentari al Tribunale di Milano, uno che è indicato dal diretto interessato come colui che compra i parlamentari per spostare le maggioranze, uno che fa votare al Parlamento italiano che Rubi è la nipote di Mubarak, uno che ha fatto decine di leggi a persona, con un partito che ha questo leader, noi non facciamo alleanze, con qualunque forma questo si presenti. Per non morire. Capito? Come si, sì, si cambia per amore. Beh, per amore. Beh, per amore proprio no, eh. Diciamo per amore del partito. Per la poltrona anche, eh. No, forse anche per amore del partito. Dove diavolo sei? Scusa, dove diavolo sei che non si sente un cazzo? Scusa, no? Dove diavolo sei? Devo dirtelo veramente? No, dove sei? Non si sente niente. Sembri no, di essere in una sola. Veramente dove sono? Sì, dove? Cornute che non sono altro. Questi sono dei cornuti. Gasparri, Fassina è un refuso. Quante mie incertezze ho già perso. Lei lo sa perché ha fatto carriera Fassina? Perché un giorno c'è stato un refuso, avevano chiamato Fassino, hanno scritto sul computer Fassina e gli hanno dato un incarico nel PD. Quindi lui è un refuso, quindi sia tranquillo, insomma, a parlare di Berlusconi. Sentire il soffio della vita su questo letto che fra poco vola, toccarti il cuore con le dita e non aver paura. Ma lo sai che Freccero ci ha attaccato, anzi mi ha attaccato? Se io avessi fatto lo scherzo che la zanzara ha fatto a Onida, sarei in galera. Freccero ogni tanto impazzisce, sentiamo. Avete talmente somatizzato di essere in qualche modo sempre al centro delle critiche che io mi sono meravigliato che di fronte allo scherzo fatto dalla zanzara, uomo di destra, perché se l'avessi fatto io ero in galera. Io avessi fatto lo scherzo a Onida, io, Carlo Freccero, andavo in galera. Come mai invece non avete avuto nessuna reazione? Ma questo di fronte ai magistrati, c'era anche Woodcock. Cioè, ha detto ai magistrati, perché non avete reagito di fronte a questa cosa? Adesso, un giorno che lo incontro, Ferrero Freccero lo strozzo con le mie mani. Ma come? Davanti ai magistrati gli dici, perché non avete fatto niente? Un uomo di destra, ma quale di destra poi? A Freccero, andiamo, su. No, parlava di te. Sì, parlava di me, certo, appunto. Ma di destra no, cosa? Ma io sono d'accordo. No, ma io sono d'accordo con Freccero. Anzi, sì, chiedo a Woodcock se può. No, sto scherzando. Però è evidente che adesso, avendo detto davanti a Woodcock, io fossi in te un po' mi preoccuperei. Questo ma sì, che preoccupare di che? Io non ho paura di niente. Senti Freccero ancora. Ma l'avviso di garanzia? Ma che me ne frega. Magari mi arriva l'avviso di garanzia. Ma magari. Cioè, mi interessa questa cosa. Perché di fronte a questo caso, che se l'avessi fatto io, nome Carlo Freccero, libero, mi avrei messo in galera naturalmente. Invece, siccome l'ha fatto la zanzara, niente, e avete subito esattamente questa cosa senza nemmeno... A debito, ma non conosco il fatto. Hanno fatto uno scherzo? Non ho guardato il TG1. Allora... Ma poi Woodcock, non conosco il fatto. Cioè, tu capisci, Woodcock si mette a ridere, hanno fatto uno scherzo. Cioè, Freccero di fronte a Woodcock invoca la punizione per noi. Ma io quando lo incontro, l'ho incontrato qualche giorno fa, mi ha abbracciato, sei un numero uno, sei un grande. Adesso mi vuole in galera insieme a Woodcock. Cioè, ma con la complicità di Woodcock. Meno male che Woodcock si è messo a ridere. Ma non metterla così, ha fatto una provocazione delle sue, no? Vabbè, io sono incazzato comunque, dopo aver sentito le Iene sono incazzato, i furbetti del badge. Ma dove l'ha detta però sta cosa, Freccero? Ma che te ne frega, che ce ne frega dove l'ha detta? I furbetti del badge al Senato, come si dice? Badge o badge, ragazzi? Badge. Oh, i furbetti del badge. Se c'è qualcuno che nega o non risponde, qualcun altro, per esempio in farmacia, dopo una prima resistenza... Buongiorno signora, lei ha beggiato, tutto a posto? Prego? Lei ha beggiato, tutto a posto? Non so di che cosa sta parlando, mi scusi, eh. Ma l'abbiamo vista entrare dentro il palazzo degli uffici del Senato e riuscire subito. Ecco, sono un attimo prendendo una cosa e poi rientro immediatamente. Ma poi che c'è fila, allora rientro. Ma non poteva prima andare in farmacia, poi beggiare e andare in ufficio? Va bene, ha ragione, la prossima volta lo farò. Queste furbate non le sembrano poco opportune? Veramente, mi dispiace perché ha preso proprio la persona sbagliata e non mi parli a me di furbata. Guadagnate 150.000 euro all'anno in media, cari dipendenti del Senato. Se dovete andare in farmacia a comprare delle cose, se dovete andare in farmacia, andateci nel tempo libero. Cioè, non andate al Senato, fate no? Passare il badge dai controlli e poi uscite, magari un cappuccio, una farmacia, eh? E l'amico Filippo Roma vi ha beccato. Ceausescu! Ciao, io esco, dove vai? Ne parleremo più avanti, eh. Carlo da Cremona, buonasera Carlo. Eccomi qua, buonasera. Vada. No, io sono contento che... Di cosa? Che non vengano fatti i funerali di Stato da Andreotti, ecco, volevo sapere chi ha deciso sta cosa, perché... Ma è un problema? Sembra... È un problema no, per no, lei? No, a me sembra un ottimo riconoscimento di lasciare i funerali alla mafia, al clero, che parrebbe essere il primo clan legalmente riconosciuto. Ecco, tutto lì. Cioè, scusi, non ho capito. Un riconoscimento. Non ho capito. Lei non vuole i funerali di Stato per Andreotti, che non ci saranno? E non ci saranno. Volevo sapere chi l'ha deciso, perché è un ottimo riconoscimento di lasciare i funerali alla mafia e al clero, che... Sì, ma la mafia non credo che celebrerà i funerali di Andreotti, la mafia. Eh? Lei dice di sì. Cioè, sono in lutto molti mafiosi, secondo lei, oggi? Sì, ma anche il clero, non solo. Anche il clero. Beh, qualche cardinale amico di Andreotti sicuramente oggi si dispiacerà di questo. Non c'è dubbio. Sì, ma anche tutti i Cellini e compagnie belle. Ecco, tutti i Cellini. Guardi che Andreotti non era proprio vicino al mondo Cellino, Sì, ma bene o male, la famiglia è sempre la stessa, La famiglia è sempre la stessa famiglia, mafia, clero, tutto insieme, tutta una grande mucchiata, mafia, clero e quant'altro. Mauro da Roma, buonasera Mauro. Buonasera. Dica. Dunque, io volevo tornare un po' sul femminicidio. No, femminicidio. Un attimo, femminicidio, no. Tutti sono d'accordo che c'è qualche soggetto che ha bisogno di tutele superiori. Per esempio, no. I testimoni di mafia, non basta il codice penale, no? Siamo d'accordo. Sì. Cioè, non è che siccome l'omicidio è punito dal codice penale, i testimoni di mafia. Senta, hanno ci sono le norme che prevedono punizioni per l'omicidio, per lo stupro, eccetera. Quando si parla di donne, c'è qualche maschio di destra che deve dire che il problema non c'è. Ma io non ho detto secondo che il problema non c'è. Chi ha detto che il problema non c'è? Da che mondo è mondo le donne vengono aggredite per mille motivi? C'è bisogno di norme, perché a volte. Ma le norme ci sono! A volte gli omicidi avvengono dopo uno stilicidio di violenze continue, non c'è modo Ci sono le norme sullo stalking, c'è un sacco di roba. Non c'è. Funziona? Ma sì, penso assolutamente Allora forse uno si può dire che il problema c'è. Facciamo la famosa task force. Grazie, no, Antonio da Siracusa. Parenzo, che c'è? Ti vuoi unire al politicamente corretto sulla questione delle foto di nudo, sulla pubblicità che provocano la violenza sulle donne? Ti vuoi unire a questo coro? Ma Ma tutt'altro, ho aggredito, ho attaccato Massimo Fini quando diceva il mito di trasmissione, quella, faceva quella considerazione, e allora? Su come si vestono le donne innocenti, quindi figuriamoci se un nudo in una pubblicità può istigare a chissà quali istinti, è una stupidaggine chi lo sostiene. Mi piacerebbe sapere da Presidente della Camera che cosa deve fare questa task force, tutto qua, però so che non ci sarà risposta alla zanzara su questo. No, no, sicuramente. Antonio da Siracusa, allora Antonio, fra poco un grande ospite, sì, se riusciamo a metterci in contatto. Sì, buonasera. Niente sul fatto che è morto il grande senatore. Voglio dire, io ho avuto la fortuna da bambino di conoscere grossi politici e scavare nelle loro biografie. Mi è colpito una volta nella zona dei Papi, a Lagni e a Fiuggi, come lodavano questo Andreotti come un loro zio. Poi alcuni mi dicevano che lui aveva parenti nell'alto clero, cardinali, addirittura qualche papa. Ma quello che mi impressiona, sì, è che tutti adesso dicono che lui era legato alla mafia. Io non lo so se era legato o non era legato alla mafia. Dico che ogni politico abbraccia tante persone, di ogni classe, di ogni portafoglio. Allora... E quello che mi stupiva era che quelli di adesso, politici, sì, secondo me, è un mio parere personale, sì, non voglio attaccare nessuno, né di destra, né di sinistra, né di centro. Quelli, sì, di adesso hanno meno umanità che aveva persino sotto meno umanità, sì, persino di chi? Quelli di adesso hanno meno umanità, sì, del banchiere che costruì Andreotti, cioè quello che era della provincia di Messina. Ma chi? Sindona, chi? Sindona, perché Sindona costruì un feudo qui a sud di Siracusa e facevo lavorare, vabbè, tante persone poverine. Poi? Quelli politici da adesso non lo fanno, guarda, lo fanno in breve, lo fanno per la loro famiglia. Va questa bene, è Antonio, grazie, la sua impressione, benissimo, grazie. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada e cadono le ceneri della città qui sulla strada, dove passano quei passi amari che fuggono dai mali. Fulvia da Ferrara, buonasera Fulvia. Buonasera. Buonasera, dica. Volevo che non si arrabbiasse subito, ma sono arrabbiata molto io. Sì. Perché guardi che questa trasmissione di oggi, sbeffeggiando la Presidente della Camera. Sì, ma siamo qua per questo noi, siamo qui per questo, Fulvia, per sbeffeggiare. Ma che diseducativa, io non devo educare nessuno, allora, basta con questa puttanata. Lei avrà voluto sintetizzare. Io ho detto avrà la mia... voluto sintetizzare, sì, un suo pensiero. Ma certo, ma infatti è libero di... Non è solo suo questo pensiero. Va benissimo, certo, Italia, non sarà solo suo, certo. Allora. E lei ha girato il mondo... come la Boldrini. Sì, in benissimo. Italia c'è un'attenzione, è vero, dalle multinazionali di, sì, mettere una forte esposizione del corpo, sì, femminile, perché c'è questa disponibilità da parte degli italiani, anche le donne, non siamo a dire solo gli uomini, ad accettare che la valutazione delle donne sia solo sul corpo, sulle misure. Senta, io posso qua dire una cosa, cara Fulvia, io di questi discorsi me ne fotto. Semplicemente me ne fotto. Me ne fotto, ma perché non mi interessa il collegamento tra il corpo delle donne e la violenza, è una puttanata inaudita. La pubblicità di una donna nuda, la pubblicità di una donna nuda, secondo lei imboglia, ma poi anche se qualcuno venisse in mente su fin da piccoli. No, ascolti, ma dai, tirar su fin da piccoli. Con l'idea che quello è la rappresentazione, se no... Ma allora non è vero, non è così, non è vero. Ma perché dice che non è così? Ma in base a cosa dice che non è così? Ma comunque, secondo me, non è così. E in ogni caso, sono discussioni sociologiche che non mi interessano. Il Presidente della Camera si occupasse di altro, non del collegamento tra la pubblicità, tra il corpo della donna e la violenza sulle donne. Grazie, Fulvia. Paolo da Firenze, buonasera, Paolo. Sì, no, guarda, mi dispiace, vi faccio perdere pochissimo tempo. Sì. Volevo solo dire, lascia perdere questi argomenti, non centrare, non accettare telefonate, perché queste non sono cose che dovete trattare in questo modo. Sì, e lo dici tu? Lo dice lei? Lo dice lei? Vi auguro una buona serata. Lo dice lei? Lo dice lei? Lo dico io, siete sempre di fatto a trattare questi argomenti con questa grande capacità di approfondimento, veramente. Mi meraviglio davvero, sinceramente. Mentre ridi. Che paura, che paura. Esatto, non ho capito. Cioè, ma vi sembra il momento di scherzare su queste cose? Te non devi trattare questi argomenti. Non devo trattare questi argomenti. È arrivato lui, è arrivato lei, è arrivato Paolo da Firenze a imporci Sì, dovresti avere un pochino più di cervello e anche un po' più di rispetto. Sì, perché Paolo, parlate di Pagliacci, parlate della signora Almirante, parlate di Borghezio, parlate di queste cose. È questo che dovete fare. Lasciate perdere questo argomento. Non è il momento di trattare argomenti come questi. Dimostrate veramente un argomento da testa di cazzo e senza rispetto per le donne, senza rispetto per nessuno. Abbozzatela, è un consiglio che vi do. Paolo, buonasera. Paolo, Paolo, le vuole parlare di Parenzo? Paolo ha finito il sermone delle 19:45. Abbiamo commentato la notizia dando la nostra opinione su quello che ha detto la Presidente della Camera. Si può o no? O arriva il pirlotto qualunque che dice non accettate telefonate? Non accettate, siamo mica la Telecom. Ma caro Parenzo, mi dispiace. Perché in certi momenti ho anche apprezzato molto il suo modo di trattare certi argomenti. Ma se la Presidente della Camera mi basta già questi episodi per rivedere seriamente il giudizio, che non so che non se ne porterà nulla assolutamente. Perché lei crede che il manifesto pubblicitario... Non voglio farmi perdere tempo. Ma non fa perdere tempo, ma lei è tra quelli. Lei, Paolo, crede che un manifesto pubblicitario possa creare dei problemi? Lei crede a questo? Non me moleste moschito. Sentite come Paolo Cirino Pomicino ha preso malissimo, ovviamente piangendo, la notizia della morte di Andreotti. Un tuo, diciamo, ricordo recente di Andreotti? No, io non lo vedevo da un paio d'anni, da quando le sue transizioni si erano arrivate. L'abbiamo lasciato tutti all'interno della propria privacy. Piange, sta piangendo. Eh sì, abbiamo lasciato. E quindi non lo vedevo da un paio d'anni, sapevo che le sue situazioni si erano aggravate sia in termini polmonari sia in termini di udito, e quindi si è lentamente spento. Non mi moleste mosquito, just let me eat my burrito. Il pianto di Cirino Pomicino. 800 24 00 24, è con noi in collegamento da Santo Domingo Marcello Dell'Utri, buonasera. Buonasera. Come sta? Che tempo fa? Io sto benissimo, qui è sempre bello, perché è eternamente 26 gradi. Beh, siamo al top. Ma cosa fa Santo Domingo? Sì. Santo Domingo mi rompo i coglioni. Questo sicuro al 100%. Ma, scusi, ma Santo Domingo... Posso abbracciarlo virtualmente? Abbraccialo. Voglio il concorso esterno, lo abbraccio fortissimo. Dell'Utri, lo sa che da quando ho detto che alla fine io sono un po' affezionato a lei, me ne hanno dette di tutti i colori. Cioè, ma lei non può immaginare cosa mi hanno detto. Ma io dico di più, perché deve dissimulare, perché tanti amici carissimi non hanno il coraggio di pronunziarsi in mio favore. Per esempio chi è che? Non mi ricordo i nomi, ma tante persone, ma lo capisco, perché di fronte ad una imperante campagna così, diciamo, allucinante, hanno tutti paura. Ma chi è che l'ha tradito? Una persona da cui si è sentita tradito e diciamolo. Non mi viene in mente, per cui siccome non odio e non ho rancori con nessuno, anzi li giustifico, perché lo capisco. Capisco che una persona può avere qualche remora a dire io sono così amico di Dell'Utri. Come peraltro devo dire tantissimi, veramente bravissimi, che lo dicono apertamente, non si vergognano, non hanno remore, e queste sono persone straordinarie, che qui dovrei fare tanti di quei nomi, ma sono quelli anche che mi confortano in tutta questa... Senta Dell'Utri, ma 26 gradi, lei si rompe i coglioni, come passa le sue giornate, scusi? Ma come vuoi, qua cosa si può fare? Passeggiare? Sì. Si dovrebbe giocare a golf, che non faccio, io non pratico, ma non pratica golf. Questo è il paradiso dei golfisti. Lo so. Vengono qui tutti per il golf. Cule, a che ora si alza la mattina? La mattina, presto, alle 7 qui sono i piedi, perché poi è il momento più bello, cioè ancora più fresco, e faccio una camminata. Quindi dal punto di vista del fisico... La spiaggia? Devo dire che la spiaggia, no, non ci vado perché... Poco, poco. No. Poco, no. Donne? Ho il mare davanti. Donne qui non è il mio caso perché non sono così fanatico. Però? Per cui, però ce ne sono. Ce ne sono, io non lo so. Devo dire la verità. Sì. Io ho sempre visto donne bruttissime. Poi quelle belle saranno nascoste. Ah, lei dice le domenicane, dice lei. Le donne di qui, di Santo Domingo. Ma no? Come, vengono un sacco di italiani a fare quelle cose che sappiamo a Santo Domingo? Vede che vanno in posti particolari. Io vedo per strada, c'è tutta gente brutta. Gente brutta, donne bruttissime. Dunque, italiani, non andate a Santo Domingo. Che ci andate a fare a Santo Domingo? No, Portatevi la donna dall'Italia, che è meglio. Sì. Scusi un attimo, ma lei ha intenzione di rimanere a Santo Domingo? Giustamente ci chiediamo questa cosa. No, io sarò tra 10 giorni e ritorno. Ma sono venuto apposta per cercare di sbloccare questa situazione allucinante che gli hanno provocato. Cioè? Per il sequestro. Ma mi hanno sequestrato la casa. A Santo Domingo? Il conto a Santo Domingo. Ma no, è stato per un provvedimento arrivato dalla procura di Palermo. Poi pure? A Milano, insomma. No. Sì. Cioè hanno fino a là? Sì, una cosa incredibile. Cioè, quanti soldi aveva là a Santo Domingo lei? Ma che mi fai, i conti in tasca? I soldi che ho preso dalla vendita della casa del lago. Ah, un sacco di soldi dunque. Un sacco di soldi, no, veramente non tanto, perché poi prima ho pagato i debiti. Per cui... Per quello che è rimasto, comunque sia, quello che è, mi hanno sequestrato conti e casa. E dunque, per la risolvere... La casa non la posso abitare. Sì. E adesso sono qui per cercare di sbloccare questa situazione. Ma non è che, siccome avevano chiesto l'arresto nei suoi confronti, poi alla fine l'hanno ritirato questa richiesta, non è che lei vuole... Sì. Non è che lei vuole rimanere lì a Santo Domingo, no? Sicuro? Ma no, innanzitutto, io già ho l'aereo di ritorno tra 10 giorni. Ma in ogni caso, non è questo il tema, perché qui c'è l'estradizione, quindi... Per cui è inutile, sì, di che stiamo parlando? Diciamo? Va bene, abbiamo la pubblicità, poi Marcello Dell'Utri in diretta da Santo Domingo su Andreotti, il governo Letta, un sacco di cose, si rompe i coglioni, avete sentito? Effettivamente a Santo Domingo non è che... Però sa, c'è molta gente che può invidiare la sua situazione lì a Santo Domingo, eh? La zanzara stronza, che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. Bisognava un attimo reagire con forza a un servizio televisivo che le accusava come mandante di alcuni omicidi. Lui mi sposava, lo lascia perdere. L'umanità è sopravvissuta a Hiroshima. Ecco. Era questo il personaggio, insomma. Comunque, è un giorno triste per me e credo che sia triste per gli italiani che ha visto crescere il paese. Il pianto di Cirino Pomicino per la morte di Andreotti. 800 24 00 24, in collegamento da Santo Domingo, Marcello Dell'Utri. Senatore Dell'Utri? Sì, eccomi. Eccoci qui. Allora, lo sa come ha commentato la morte di Andreotti il procuratore Caselli? No, ha avuto rapporti con la mafia fino a 1980. Così ha detto. Si qualifica da sé. Si qualifica da sé, ma cosa stiamo a dire? Poi non è, se ne frega quello che dice Caselli. Non può che dire questo, lo dirà fino alla morte. Cioè Caselli pronuncerà queste parole, le dice fino alla morte, perché... Ma certo, perché difende il suo operato, tutto il tempo che hanno perso, diciamo, indagando su un personaggio secondo me straordinario. Io adesso non lo conosco bene, Andreotti. Non lo conosce? Sì, l'ho conosciuto, non è che lo conosco da tanti anni, anche per la differenza di età, ma in questi anni di cui sono stato al Parlamento e l'ho frequentato e ho anche parlato con lui, io non posso che esprimere una grande considerazione. Però scusi un attimo, ma è vero secondo lei che fino al 1980 le sentenze dicono questo, che aveva rapporti con la mafia fino al 1980? Ma le sentenze dicono, ma chiunque può aver avuto rapporti con la mafia, che vuol dire rapporti con la mafia? Aveva il partito, la Democrazia Cristiana, in Sicilia, eccetera. Beh, è chiaro, ma tutti allora ce l'hanno avuto rapporti con la mafia, se si intende conoscere persone o il famoso bacio di Rina, no? Hanno inventato pure quello. Che vuol dire, tutti i politici hanno avuto, credo, ma se poi con la mafia, con chi? Con personaggi magari osannati prima, venerati e rispettati, poi si scopre che sono mafiosi, cioè la mafia esiste in questo... questo, diciamo così, dunque lei non crede a quelle sentenze lì? Romanzo criminale, io no. Ah, no, guardi, io credo perché devo credere a certe cose quando saranno storicamente provate. Adesso non ci credo. Però scusa, beh, la sentenza, le sentenze sono parte della storia su Andreotti, sì, poi dopo dicono che non è stato assolto perché l'hanno invece prescritto, eccetera eccetera. Ma tanto è facile fare condanne di questo tipo. Ma che tempo c'è oggi a Santo Domingo? Che tempo fa a Santo Domingo? Qui è bellissimo, 26 gradi, un po' di umidità, però c'è un venticello delizioso che ti fa anche superare il sole. Che ma scusi, ma perché non resta lì direttamente, senatore? Ma perché non resto qui? E che faccio? Bed and breakfast? Beh, ma no, ma il tempo è piacevole. È vero, ci si annoia un po'. Non ci sono i libri, non ci sono le cose. No, ci si annoia. Guarda, io lo dico, qui è bello, bellissimo, un paradiso terrestre. Dopo 10 giorni, 20 giorni, un mese, veramente ti sei rotto. Sì, non è poi più. A meno che non sei un golfista scatenato, qui vengono i golfisti, oppure ami la marca, eccetera. O le donne. Cosa fai? O le donne, benissimo, ma ripeto, io qui di belle donne. Lei né golf, né donne... e la barca le donne le barca e che fai? Guardi, ma scusi, ma lei che la Cassazione, lei che prevede? Mi faccia una sua previsione, sarà condannato lei Dell'Utri? Quando sarà il giudizio di Cassazione? Ma l'imputato prevede sempre che vada bene. No, ma quando è prevista la sentenza di Cassazione su di lei? Ah, credo entro l'anno. Entro l'anno. Sì, entro vabbè l'anno, per adesso non ci pensa, non ci sta pensando. Ma io è che entro l'anno significa che devo trovare però una dei giudici assolutamente fuori da ogni diciamo prevenzione. Ecco, mi sembra difficile però. Sì, guardi, il progetto, ma è difficile, scusi, la Cassazione prima ha annullato la condanna dell'appello di Palermo dicendo che c'è un imputato, manca l'imputazione, rifate il processo. Lo hanno rifatto. Condannato di nuovo? Fuori nulla e lì hanno condannato di nuovo perché la Corte d'Appello di Palermo, che ha giudicato la seconda volta, non ha smentito la Corte d'Appello di Palermo della stanza accanto, evidentemente. Adesso quindi dicendo alla Cassazione, ritorno alla Cassazione, cosa dirà la Cassazione? Ecco, vedremo. Spero che possa ripetere quello che ha fatto prima della prima volta. Comunque, se deve andare in galera, le va in galera tranquillamente, senza problemi. Se devo andare, ripeto, se andrei, almeno diciamo che avevo qualcosa da fare, lì si trova. Dove? No. In carcere, dice lei? In carcere, certo. Sì. Lì ci sono tanti compiti, ti danno da fare le cose, le pulizie, la biblioteca. Oh, c'è tanto da fare. Puoi dare conforto ad altri poveracci. Non c'è da preoccuparsi poi più di tanto. Beh, 7 anni sono tanti, però. Forse ci si annoia meno in galera che a Santo Domingo. Volano via. Volano. Volano. Guarda, è l'occasione per studiare, per leggere. Io amo per esempio l'ebraico, non sono mai riuscito a studiarlo. Sì. Pensi lei, quando uno mai si metterà a studiare l'ebraico, se non è in carcere è costretto. Poi non saranno 7 anni, poi non saranno mai 7 anni. Ma non lo so, quelli che saranno, se saranno. Sì, se quando saranno, guardi, eccetera. Io sono vado io a un'ecasta, lei sa che sono di ecasti, sono quei monaci che vivono contemplando, come no, eccetera. Quindi sono tranquillo nello spirito e nel corpo, non compone nulla. Meglio in carcere che a Santo Domingo, lei ci fa capire quasi. Cioè, no, questo, non lo dico. Però insomma, voglio dire, quando se non lo puoi evitare, che fai? No, beh, certo. Scusami Parenzo, ma qualcuno ha scritto Parenzo in questi giorni che Dell'Utri ha raccomandato Micciche per farlo diventare sottosegretario di nuovo. È vero Dell'Utri? Ho visto un'intervista che hanno fatto di Cicchè, ma è una palla grossissima, prima di tutto perché se c'era uno che si doveva raccomandare ero io e come ben si sa sono stato neanche candidato, quindi che cazzate. E di Cicchè, che evidentemente è sempre carino nei miei confronti e scrive solidarietà eccetera, e ha ritenuto che io abbia dato una mano a lui, ma non vedo come. Ma figuriamoci se lei fa una telefonata per dire Micciché, facciamo Micciché sottosegretario, no? Ma non esiste, ma voglio dire, non esiste. Ma lo sa che ha detto Crocetta, il presidente della Sicilia? Vuole addirittura che Letta cacci Micciché perché è stato sponsorizzato da un condannato per mafia in appello, una cosa gravissima. Crocetta dice, Crocetta. Crocetta, lasciamo. Io penso che non mi va neanche di parlare male di Crocetta. Perché? Perché devo parlarne male? Ti dicono anche che va bene, non lo so. Ma voglio dire, è un fatto da superficiale, uno superficiale, uno che dice questo. Innanzitutto le condanne devono essere definitive. Sì. Secondo, che cazzo ne sa Crocetta della mia vita e di tutto quello che è successo? Non sa niente. Quindi parla anche lui per sentito dire, per quello che legge sui giornali, e tante persone ovviamente giudicano da questo. Però scusi, Bicicè dice: sono risorto grazie a Dell'Utri. Anche grazie a Dell'Utri, perché io sono amico di Bicicè, tutto qua. Basta, solo questo. Ma gliel'ha consigliato lei a Berlusconi? No, Dio, lei ha chiamato Berlusconi e ha detto a Berlusconi: nomina Bicicè. No, ma non ci ho neanche parlato io. Cioè, figuriamoci. Quando è l'ultima volta che ha parlato? Certo. La amicizia e l'affetto che lega a Bicicè da sempre, che fa pensare queste cose. Poi, vabbè, comunque Berlusconi alla fine, in un modo o nell'altro, Dell'Utri dà le carte al governo. Cioè, Alfano, che lei aveva detto che era quello che era, è vice premier e ministro degli interni, si rende conto o no? Caspita, ha fatto una cosa da carriera brillantissima, no? un po' troppo secondo me. Ma no, un po' troppo. Guardi, se uno arriva, io dico sempre questo, se è arrivato a certi posti, non è un caso, vuol dire che te lo sei meritato, punto, riconosciamo. Però lei l'ha criticato più volte, Alfano. Ma io l'ho criticato non come persona, attenzione, come segretario del partito. Sono stato il primo a dire che era un ragazzo di talento e che era uno del futuro del PD, ero stato il primo, l'ho detto dall'annunziata. Però come segretario del partito in quel momento non ha fatto quelle cose che ci si attendeva che doveva fare. Tutto qua. Ho detto perché no, doveva cambiare le cose, doveva costruire il partito, rafforzarlo. Non è stato fatto questo. Vuol dire che è bravo in certe cose e non è adatto ad altre. Parenzo, che fai lì, silente? Che fai silente? No, non volevo sovrappormi a Dell'Utri, a cui voglio veramente bene, voglio dirlo. No, non lo dire, che sennò poi ti massacrano, ti fanno passare i guai. Ti fanno passare. Voglio bene io David Parenzo. Non lo dire, dai. Ma non lo dire, poi ti dicono è condannato per mafia, poi ti dicono le peggio cose, ti dicono. No, io di sinistra. Scusi, Dell'Utri, ci vorrebbe un salvacondotto. Dell'Utri alla sua ironia. Ci vuole un salvacondotto per Berlusconi, secondo lei? Ma Berlusconi il salvacondotto se lo è già fatto lui. Cioè, in che senso? È stato bravissimo. Vuol dire, se non si riconoscono le qualità dell'uomo, veramente non siamo. Vabbè, è stato viviamo. Perché il salvacondotto l'hanno torturato, questa è tortura, l'inquisizione seicentesca, non esiste. Che poi un uomo guardato dal buco della serratura pure della sua vita privata, quello che hanno fatto a Berlusconi è incredibile. Io mi meraviglio come Berlusconi ancora abbia voglia di fare, di lottare. Lei si meraviglia che sia vivo addirittura. E che sia vivo, ma è vero, perché con queste cose ci si ammala e anche gravemente. Ma il capo dei torturatori chi è? Il capo dei torturatori, il Torquemada di Berlusconi, chi è? Torquemada è il tribunale di Milano, comunque, perché mi pare che da lì vengono, insomma, da tribunale di Milano, ma ricordiamoci da Boselli poi, quando gli mandarono l'avviso di garanzia a Napoli al presidente del Consiglio che presiede una conferenza. Scusi, ma però si parla Berlusconi, quella è una cosa che grida vendetta. Sì, ma Berlusconi vuole questo, alla fine vuole essere protetto in qualche modo dalle condanne che ci saranno. Secondo lei è giusto in questo accordo con Letta? Secondo lei c'è questa roba qui? No, nessuno può fare questo. Nessuno che possa dare salvacondotti, che possa fare un discorso del genere. Non esiste, perché il sistema italiano nostro è tale per cui non c'è una forza che possa dire, fermate questa cosa, spostate, ma proprio non c'è. Per cui siamo appesi, Berlusconi è appeso così alle sentenze. E, certo, e anche il governo è appeso alle sentenze, anche questo governo. Ma io penso che Berlusconi saprà anche in questo caso dimostrare uno spessore che era non sospettabile. Cioè, se lo condannano, non deve fare saltare. Non farà niente, ma sono sicuro, perché Berlusconi ormai ha fatto una scelta, una svolta. Questo di Berlusconi è una svolta straordinaria. Cioè, quella del governo. Certo, ma una cosa bellissima, che è storica e rimarrà storica. Cioè, per lei questo governo è un governo storico, lei adora questo governo? Non adoro, io non adoro niente. Vabbè. Io ritengo che questo è l'unico governo possibile, questa era l'unica mossa possibile che Berlusconi avrebbe potuto fare, sempre che appunto ne avesse avuto le capacità che ha dimostrato. Ma per cui Enrico Letta lei lo conosce, bravissima, no? Ricoletta per me è uno molto bravo. Molto bravo, Non c'ho niente, ma molto bravo, è uno accorto, prudente, sobrio, c'ha tutte le qualità. Meglio di molti del PDL, diciamo la verità. Meglio di molti di tutti i partiti. Ma anche del PDL, su. Meglio di molti di... Beh, nel PDL ci sono persone straordinarie. Però è meglio ci sono di anche tanti incapaci, ma ci sono persone straordinarie. Comunque Letta in questo momento è la migliore scelta possibile, Enrico Letta. Io penso di sì. Ma lei lo conosce personalmente o no? No, non lo conosco. Lo conosco così come lo conosco. Conosce meglio Gianni, ovviamente. Beh, Gianni chi non lo conosce. Gianni è amico di tutti, chi non lo conosce. Con lei che rapporto aveva Gianni? Ottimo. Sì. Comunque sto Letta le piace, è bravissimo, Enrico Letta. A me piace, c'ha tutto dalla sua parte, è giovane, è brillante. Certo, Berlusconi dà le carte, Berlusconi dà le carte lì, Vabbè, però le dà uno bravo, quindi certo che dà le carte, nel senso che ha favorito questa composizione. Hai capito? Ma questo però bisognava vedere con chi si gioca a carte. Ha scelto un partner abile e sicuramente uno che saprà prendere il testimone. Parenzo, prima di lasciare, che vuoi chiedere di Ingroia? No, volevo aggiornare il senatore Belluti su cosa fa Ingroia. Sì, certo. Questo tema è importante, aggiornarlo. Allora, pare che rifiuti Aosta, non vuole andare ad Aosta, sembra. Non vuole andare ad Aosta, non so sciare. Non vuole andare ad Aosta e vuole fare un altro partito che si chiama Azione Civile, dopo Rivoluzione Civile, caro Dell'Utri. Ma è giusto che faccia questo, è il suo sogno. Ingroia ha fatto solo politica anche quando faceva il PM, sì. Ha solo fatto questo, e quindi che continui, giusto? Che cosa ci va a fare PM ad Aosta? Magari ci sono un sacco di inchieste da fare, ci sono tanti bravi PM che ne possono fare, c'è bisogno di Ingroia, ma non mi faccio ridere. Vabbè, comunque Biancofiore l'hanno trombata sulla questione dei gay, ha visto, sì? Cioè... Sì, vabbè, giusto quello che ha fatto. Anche qui, vede, Letta ha dimostrato di avere le palle. C'ha le palle, Letta, è uno che ha le palle, secondo me sì, ma uno che fa subito seduta stampe, prende questa decisione, ha fatto benissimo. Insomma, dimostra di avere le palle. Sì, secondo me sì. Ma io la sento entusiasta di questo Letta, Dell'Utri, Letta sono entusiasta, è l'unica possibilità che abbiamo ed è stata ben riposta, questo è il mio pensiero. Quanto paga di IMU lei? L'IMU si paga a Santo Domingo? A Santo Domingo si pagano tante tasse, non lo so perché non me ne occupo io. Mamma mia, non lo so. Che situazione, ha sbloccato tutti i conti, là è un casino. Adesso qui è un casino, devo fare faccio la colletta per vivere. Addirittura? La colletta tra gli amici. Perché? Per forza. Perché? Perché non ci sono, è che non posso toccare i soldi. Quindi cioè, come campa lì a Santo Domingo? Come fa? Mi faccio prestare da amici in attesa di restituire. Ma lì a Santo Domingo la conosce qualcuno, lei che gli presta i soldi? Sì. E come sono? Ma come glieli danno? In contanti? Come glieli danno i soldi? No, anche con l'assegno. Cioè viene uno con la valigetta, con la valigetta ogni mattina dice... Ma perché deve fare sempre queste immagini, diciamo, a scopo demagogico? Ma no, demagogico, sì. Perché? Che demagogico? Viene uno... La valigetta, perché lo spettatore, l'ascoltatore dice, cazzo, la valigetta, i soldi, e che è tutto così nella vita. Ma no, l'assegno, vabbè, gli assegni, vabbè, d'accordo, gli assegni. Non è così. Vabbè. Magari con i beni e consumi, ti dà dei buoni, dei coupon. Che va a fare? Ha pranzato? Che ha mangiato? Adesso vado a pranzare con mia figlia Marina, che si è laureata in ecologia ambientale e biologia marina. Madonna, bella. In Florida, sì, sì, ed è venuto a trovarmi qui perché io non sono potuto andare in Florida. Perché per i condannati in secondo grado il visto per gli Stati Uniti non c'è. Ah, lei non può andare negli Stati Uniti perché è condannato in secondo grado? Beh, è un paese civile. I condannati in secondo grado non ti danno il visto. Un'altra mortificazione che ho provato, perché la mia famiglia è andata alla laurea di mia figlia, tutti ben contenti. Colpa di chi allora? Con la procura, anche qua i magistrati non hanno fatto andare alla laurea di sua figlia? No, i magistrati la condanna. Se c'è una condanna in secondo grado, gli Stati Uniti non danno il visto. Certo, se l'è presa male lei. Se l'è presa male, immagino. Sì, ma certo. No, che devo dire, a male non mi prendo niente, caro Cruciani, niente. Ho preso atto e invece di andare in Florida sono venuto sotto. Un'incazzatura con Ingroia l'avrà fatto. Una freccetta. Festeggio, guarda, la cosa bella è che mia figlia si è laureata con ottimi e brillanti voti ed è laureata in ecologia marina, ecologia ambientale, alla faccia di Ingroia, biologia marina and business administration, alla faccia di Ingroia, sì, e non mi ha fatto neanche pagare le tasse perché è stata brava. Quindi questo lo posso dire, scusi se faccio propaganda. No, giusto, per carità, assolutamente. Grazie, buona festeggiamento della laurea della figlia di Marcello Dell'Utri in diretta da Santo Domingo, però tornerà tra 10 giorni, ha detto che torna, giusto Dell'Utri? State tranquilli. No, lo dica ai magistrati che magari emettono un mandato d'arresto qui. Ah, non credo. Comunichi, sono a Santo Domingo, però torno tra 10 giorni. L'ho già dichiarato a tutti. E che ne so. Eccoci qui, la zanzara 800 24 00 24, un IBAN, quello di Marcello Dell'Utri, fra poco vi arriverà, l'IBAN dove mandare un contributo. Il senatore Marcello Dell'Utri si trova a Santo Domingo senza il becco di un quattrino, questa è una grande... Questa, guarda, lasciamelo dire, è una iniziativa lodevole che hai lanciato. Cioè, hai i soldi sequestrati, la casa sequestrata a Santo Domingo da parte della procura. Bravo. Di Palermo, è andato lì a sbloccare la situazione, non ha un euro, e beh, ci vuole l'IBAN, e mi sono scordato alla fine. Io voglio dare il mio contributo, guarda. Quanto? Voglio essere Quanto? Il primo. Io penso che darò 20, 50 centesimi, la vita a Santo Domingo non costa molto. Penso che sia proporzionato anche al reddito, a tutto. Ma no, 50 centesimi, ma che ci fa 50 centesimi il senatore Dell'Utri? Sei pazzo? Ma è simbolico, lui lo sa, è una roba simbolica. 50 centesimi. Vabbè, perché poi non ho capito. 50 centesimi. Tu quanto dai? Prima quanto della dai? Fine della trasmissione voglio l'IBAN di Dell'Utri. Datemelo dalla regia, che lo comunichiamo. Tu quanto dai tu? Non lo so, 10 euro. Anna Maria da Milano, 10 euro a Santo Domingo, no. È buono. Anna Maria da Milano. Sì, buonasera. Dica. Non mi interrompe per cortesia. Allora, rimpiango lo stile e l'eleganza di Sant'Almassi. E chi se ne frega, va bene. Ecco, io non me ne frego. E io me ne faccio una ragione di quello ecco che lei dice. Ecco, se ne faccio una ragione. Benissimo. Sono d'accordo con la Presidente della Camera Boldrini. Oh, e questo va benissimo. Un femminicidio. Benissimo. E trovo fuori luogo il suo sarcasmo. E ricordo che al giornale radio 24 ore delle 19. Delle 19, sì. Un'altra giovane donna è stata sfigurata con l'acido. E beh, allora che cosa vuol dire? Però guardi, mi verrebbe voglia di dire che qualche volta capitasse anche lei. Terzo punto. Ma lei è una criminale, scusi. No, non sono una criminale. E lei qualche volta quando istiga, ecco. Quando? Quando istiga. Istiga, sì. Perché non si può dire? No, pensavo si dicesse ecco. Istiga. Allora, però... sì, esatto, guardi. Visto e considerato gli errori che fa lei. Ah, sì, ma io ne faccio, però non mi vanto. Mi piace che Parenzo si lasci un pochettino trascinare da lei. Sì. Scusi, Anna Maria, si può pensare... Non mi lasci parlare. Stia tranquilla. Guardi, non mi faccio condizionare al fatto che lei è una donna. Non si preoccupi. Non si preoccupi. Anna Maria, stia tranquilla. Stia tranquilla. Sia molto... Lei deve stare molto tranquilla. Devi dire una cosa. Lei deve stare tranquilla, si calmi. Cotto. Prenda una camomilla, si calmi. No, io non prendo le camomille, non ne ho bisogno. Si calmi, guardi. Una tisana allora, una tisanina? Cotto tutti i prodotti. Una tisanina? Dite le donne che la pensano come me. Sì. Ecco, tutti una i tisanina. Prodotti che sfruttano il corpo della donna. Se sì, lei non benissimo. Interessa niente, io lancio questo invito alle donne che la di pensano di boicottare come che cosa? Di boicottare i prodotti che... Boicottare cioè, adesso i prodotti che sfruttano lei, secondo corpo lei, donna. Non si può fare una pubblicità ai profumi. Ma perché non prendono voi? Vi sbastano lì col... guardi, non me le faccia dire, per favore. Sì, sì, sono una femminista, ma lei magari penserà povera cretina, perché ma tanto non penso povera cretina, è lei che pensa di me, questo qua è lei che pensa di me, io non penso affatto di lei che sia una povera cretina. Penso che è sbagliato attribuire alla pubblicità con una donna nuda la responsabilità della violenza sulla donna. Un pochettino che utilizzino voi, ma siete talmente brutti, ma guardi, da quel punto di vista. Vabbè, ma lei è pazza, cioè, ecco, siete talmente pazza, brutti, lei è ma, ma di che sta parlando Anna Maria, ma di che parla, cioè, ma di che cosa parlo? Ma di che parla? Ma di cosa parla? Ma dico io tante volte di che parla lei. Ma di che parla? Lei ce l'ha un uomo, signora Anna Maria? Sì, signori, anche qui con me. E devo dire che sono una fortunatissima. Sì. Beh, allora qual è il problema? Scusi. Qual è il problema? Perché deve attribuire agli uomini delle responsabilità che non hanno? Come non hanno in le generale, in generale, alla pubblicità. Ma quante ne hanno uccise l'anno scorso e quante? Ma che c'entra? Ma quelli sono degli assassini, dei criminali che vanno messi in galera. Quelli sono utilizzarci così. Ma utilizzarci chi? Sì, ma di chi cosa parla? Ma di cosa parla? Ma di cosa parla? Non è necessario. Ma chi lo decide che non è necessario? Chi lo decide? Lei? Ma dove allora, siamo? Certo, nel mio piccolo lo decido. Ma dove? Io per quello ma che in Iran, funziona così, in Iran. Se di comprare quei prodotti, vede che la smettono anche loro. Questo... Funziona in Iran così, in Iran, in Iran così. Ma che io sono molto più libera di lei mentalmente. Questo glielo dico io, caro il mio signor Cruciani. Ma suo marito dov'è? Mi passa suo marito, per favore. Mi ma passi non suo so marito. Perché tante volte mi lascio di cocciare. Mi passi suo marito. Ascolto. Mi passi suo marito. Sono pazza, ha ragione. Mi passi non suo marito. Ascoltarlo. Mi passi suo marito, lo prego. Mi passi suo marito. Come? Mi passi suo marito. Mio marito? No, no, mio marito è una persona che sì. ha una grave malattia. No, ah, mi perdoni, scusi, non lo sapevo. No, è tutto, sì, mi perdevo, è una persona che muove soltanto un beh, dito. Mi perdoni, quindi. Non lo sapevo. Ed è per questo, ma io le battaglie le faccio lo stesso. Ma che c'entra questo, scusi, no, signora? Appunto. Eh no, ma questo non c'entra nulla. Ecco. L'abbraccio fortissimo, mi dia un abbraccio, mi dia un abbraccio dite... fortissimo, mi dia un abbraccio fortissimo, le prego, un abbraccio virtuale, fortissimo, un abbraccio fortissimo virtuale. Fortissimo. Mi prende in giro però. Ma no, ecco, è vero, vero, non lo sto prendendo in giro, un abbraccio fortissimo, Anna Maria, non la pensi così, le pubblicità non fanno male a nessuno, sono le pubblicità, è la modernità, è l'economia, muove l'economia, le pubblicità delle donne sono meravigliose, sono graziosissime, poi ci sono pure quelle che non vanno bene perché sono sgradevoli, però non istigano la violenza. Parenzo, diglielo tu alla signora, ti no, prego. Sì, è una questione proprio estetica di valorizzare la bellezza della abbracciamo fortissimo po- abbracciamo fortissimo signora Anna Maria, abbracciamo. Ma oltre io non solo l'abbraccio, dico si diverta con noi e rida, non prenda tutto troppo sul serio. Grazie, vogliamo, grazie Anna Maria, presto, grazie. Ed ecco noi il mitico Gianluca Buonanno. Caro Gianluca, come stai? Ciao, sindaco, sto abbastanza bene, grazie. Sindaco di Varallo Sesia, senti... subito, allora la ministra di colore, forza. Aspetta, avanti. Adesso ci arrivo, stai tranquillo e stai calmo. Buonanno, subito. Lei quando vede la pubblicità di una donna... Che reazione sì. ha? La pubblicità, sai che oggi il Presidente della Camera ha detto no, che le pubblicità provocano, il Presidente della sua Camera ha detto sì. che la pubblicità provoca la violenza, la pubblicità della donna. Ah, sono totalmente in disaccordo e penso che le prime nemiche delle donne sono le donne stesse, perché vige in molti campi un'invidia sì. e comunque... Anche quando si va a votare, sì. quando ci sono le elezioni, molto spesso le donne non vengono votate dalle stesse donne, ma lo dicono proprio anche apertamente. Poi fanno la festa dell'8 marzo, eccetera, eccetera, però poi in realtà... Cioè, ma lei dice che la Boldrini è invidiosa di quelle che fanno le pubblicità? Ma guarda, il presidente attuale della Camera... non ho molta simpatia per lei, so, ma mi sembra so. Che da quando fa il presidente della Camera chiacchiera chiacchiera un po' troppo esterna, magari facesse qualcosa di più chiacchierasse un po' di meno Siamo qui, se siete incazzati per i furbetti del badge, quelli che entrano al Senato, i dipendenti strisciano il badge, come hanno documentato le Iene, e poi se ne vanno a prendere il caffè. Alla Camera, Buonanno, succede lo stesso, perché la casta non è solo quella dei politici, è anche quella dei dipendenti della Camera e del Senato. Che succede alla Camera, Buonanno? Ma non è solo la Camera e il Senato, le regioni, le province, le ASL e le authority... C'è dappertutto. All'Italia avete visto che cosa succede con i bagagli? Insomma. Sì, all'Italia adesso non c'è più lo Stato, però comunque sì. E chissà se verranno condannati quelli là, perché tra l'altro se verranno cacciati, Dubito, l'altra dubito. Volta le hanno poi ripresi tutti, perché i sindacati, uno dei malesseri di questo paese, che poi i sindacati difendono anche l'indifendibile, per cui alla fine sì. Tra sindacati, tribunali, codici, codicilli, il giudice, non il sindacato. Peggio mi sento, giudice. Peggio mi sento se è stato il giudice, con l'appoggio dei sindacati ovviamente, col sostegno dei sindacati. È stato un giudice, Branco di Asini. Sì, scusami, bravo, Parenzo, bravo. Scusa un attimo, ma tu lo sai che alla Camera... pare che alcuni dipendenti, ma perché dovete fare proprio disinformazione? Ma che stai dicendo? Che cosa stai dicendo? Là, quel signore lì che chiami onorevole, il signor Buonanno. Buonanno, sei un somaro. È un pessimo anno, non è un buon anno, è un pessimo anno quello lì. Quel sì. Signor buon anno, allora... il signor pessimo anno, l'onorevole pessimo anno, ha detto nella sua solita, perché è un grossolano, perché è una persona grossolana. I sindacati, tanto per spararla grossa, no? C'è una legislazione del lavoro, se non vi piace la cambiate, ma dovete ma la cambiate, però dovete cambiarla. Senta, buon anno, ma oggi è un giorno di lutto per lei, che è morto Andreotti oppure è morto uno dei capi della mafia? No, beh, quello non l'ho mai, sinceramente, anche se ero un bambino, non ho mai pensato che fosse il capo della mafia. Certamente è stato un uomo che dal dopoguerra fino a poco tempo fa, dopodiché santo non era, ecco. Santo non era, dice lei, eh? No. Qualche scheletro, qualche rapporto, no? Con quelli, con quelli di Cosa Nostra, eh? Io questo non posso dire, certo che, insomma, la Sicilia era un feudo democristiano e quindi comunque qualcosa... poteva essere. Poi non so, Salvo Lima quando è stato ucciso era ben un suo referente, no? Comunque Parenzo, un ascoltatore mi ha scritto: io è da due ore che sto guardando un film porno eppure non mi viene in mente di ammazzare nessuna donna e di stuprare nessuna donna, perché dai su, ma questa cosa tra la pubblicità, lei si vede dei film porno buon anno ogni tanto? No, mai. No, appena sento la voce di Parenzo mi viene male. Ma che c'entra con il film porno? Scusi, non ho capito cosa c'entra. Ma scusi, ma non è che lei... Perché sei una testa di C, puntini, puntini, ZO. Scusi, buon anno, ma non è che lei pensa uno di quelli che pensano che ogni tanto le donne se le cercano, no? No, credo che sia una cosa molto delicata e soggettiva. Certo è che se in Italia ci fossero veramente... diciamo così, le leggi le facessero rispettare, compresa la pena che viene inflitta, e quando gli fai una cosa gliela fai seria, vedi che prima di fare qualcos'altro ci penserebbero molto. C'è la castrazione, molto, molto. La castrazione chimica, secondo lei va bene? Bisognerebbe farla? Ma io adesso non è che mi intendo la castrazione chimica, io penso che intanto stare in galera, se uno prende 30 anni, ci deve stare 30 anni. Ma che sta facendo? Che se capitasse a un parente o un amico mio, qualcosa del genere, è logico che ti verrebbero tanti pensieri. Io sono per i lavori forzati. Ah, i lavori forzati, eh? Come minimo. Minimo i lavori forzati. Sì. Cioè insieme alla pena, secondo lei, in qualche caso ci vogliono i lavori forzati. E tanto li paghiamo lo stesso in carcere, meglio che almeno facciano qualcosa. Cioè, ma lavori forzati, serio? Lavori forzati che vuol dire? Battere le pietre, andare nelle cave, raccogliere i pomodori? Fare delle cose che siano utili, perché comunque... gli assassini o chi commette dei reati così gravi e ferati non può essere trattato come tutti gli altri. Poi la gente, diciamo così, un po' si dimentica, ma chi ha subito e gli amici e parenti è giusto che meritano la giustizia. Senta, insomma. Buon anno, ma io voglio capire una cosa, ma che sta facendo Parenzo? Sta tirando la canna della... No, la è una forma di protesta. Adesso non voglio insultare Buonanno, però se sento Buonanno parlare di temi troppo importanti come quelli, io tiro lo sciopero che non mi interessa. Vabbè, d'accordo, tira la catena d'accesso. È una forma di protesta. Scusi. Adesso invece io voglio fare una cosa. Ma c'è un mio amico che fabbrica carta, voglio fare. Gli chiedo di fare un rotolo di carta igienica con la carta con la faccia di Parenzo. Ecco, bravo, bravo. Però poi me lo porti qui, così lo esibisco alla Zanzara di sera. Scusi, Buonanno. Questo è un deputato, capito? Ma la Chieng, è il suo ministro? Lei lo riconosce come suo ministro, la Chieng? Ma penso che ci sia, come dire... Ma è il suo ministro o no? Anche un filo di ipocrisia, nel senso che a me non interessa se un uomo o una donna è di colore oppure no, basta che faccia delle cose. Però mettere una donna di colore in immigrazione... sembra veramente che ci sia un po' anche di ipocrisia, perché comunque io non vedo perché, non so, in Italia non ci sia qualche italiano, qualche italiana che possa fare il ministro dell'immigrazione, no? Dell'integrazione. Allora io mi chiedo se magari in Congo c'è un ministro di quel genere, italiana. Allora lo devono fare italiano. Cioè lei dice in Congo, italiana. A parte che la Chianga è italiana. Italiana. Difatti, io cosa sto dicendo? No, lei ha detto, non vedo perché non ci sia un italiano. Sì, che non ma, può... per fare un esempio, per dire che comunque, certo che è italiana, ma sto dicendo che non è che se uno sta in Congo, allora i ministri devono essere tutti... ma non capisci niente, no? È italiana! Ho capito italiana. Che è italiana, ma l'ipocrisia secondo me sta anche nel fatto che hanno voluto mettere una persona di colore della pelle diverso dal tuo. È più eh? Ha il colore della pelle diverso dal tuo, è ma più intelligente di te. Per me non è un problema, Ma è entrata è più intelligente di te. Lei ha ammesso di essere illegale all'inizio, è un problema? Beh, se ci sono delle leggi e uno entra illegalmente, mi sembra che le leggi si dovrebbero rispettare. Cioè, secondo lei è clamoroso, Bonanno, che ci sia un ministro che è una che è diventata ministro ed è entrata illegalmente in Italia? Ma no, adesso, allora, se ha commesso un reato in precedenza e poi dopo... Non era reato all'epoca. Comunque l'immigrazione clandestina cioè secondo lei adesso, però la prima cosa che dice è vogliamo dare il voto vogliamo dare la cittadinanza a chi nasce in Italia, cioè non so, credo che ci siano altri problemi prima. Lei dice io penso che bisogna veramente allora a questo punto fare il ministro per i pensionati che hanno dei grossi problemi, il ministro per cerca lavoro, perché è un altro tipo di problema, no? Il ministro, infatti c'è il ministro del lavoro. Infatti c'è il ministro del lavoro, lei dice bisogna... sì, appunto, ma cerca lavoro, perché il ministro del lavoro oggi come oggi insomma non mi sembra che ci sia il massimo della vita. Noi oggi nel nostro paese abbiamo troppa gente che si ammazza perché non sa come sbarcare il lunario, c'è troppa gente che perde lavoro, ci sono troppi cassi integrati, le aziende fanno molta fatica e c'è uno Stato che invece di aiutarli. Ma esiste anche il Ministero dell'Integrazione, punto e basta. Ho capito, però mi sembra che oggi come oggi i ministri che hanno parlato di più... mi sembra che la signora sia una di queste, insomma. Ma lo sa quanti fratelli ha? Fratelli e sorelle la Chienghe? 38. Adesso vediamo anche, c'è anche una cosa che a me non piace. Che cos'è? Vediamo se ne occupa la ministra. Cioè quella che ci sono molti immigrati che sono in Italia, che sono venuti in Italia, poi il parente, la mamma, il papà, lo zio, la zia percepiscono poi una pensione di circa 400 euro, poi se ne ritornano al loro paese e prendono la pensione. Ma è un problema il fatto che ci abbia 38 fratelli, 37-38 fratelli? Ma sarà un problema suo, non so quando farà il compleanno, magari deve prendere una sala grande, però io non so poi che cosa sia cosa faccia. Sinceramente magari non vuole far venire in Italia, che ne so. Deve prendere una palestra però. Ma lei dice... Scusa, ovviamente è una scelta. Cioè una famiglia con 38 fratelli, secondo lei è una cosa normale? A me non sembra, però magari in Congo lo è. Quindi... Non appartiene alla nostra cultura, lei dice, il fatto di avere 38... Ma non so, se lei è qualcuno in Italia che ha 38 fratelli, alzi la mano, non mi sembra. Cioè sono altre, è un'altra, lei dice, un'altra roba, è un altro mondo, è una roba... No. Che adesso la cultura italiana sia simile a quella del Congo mi sembra insomma una la cosa... cultura italiana perché che c'è parecchio adesso il leghista difende la cultura italiana, ci hanno rotto le balle per 20 anni dicendoci il nord va via, il nord non fa parte della cultura italiana. Cultura italiana, cioè Bonanno che parla di cultura italiana è come non so se Umberto Eco si mettesse a fare le esegesi della Zanzara, cioè non c'entra niente, Umberto Eco è un intellettuale, non c'entra con il nostro rotolarsi, no? Allora, perché tu disprezzi chi comunque come sottoscritto è da 20 anni è votato, magari qualcuno pensa che faccia qualcosa anche di buono, no? Parenzo, invece tu sei lì cooptato in una trasmissione di successo ma non capisci niente. Vabbè. Traffico, torniamo subito. Traffico. Strade in diretta. In Umbria, traffico rallentato per un veicolo fermo in panne sul raccordo Bettolle e Perugia. Siamo tra Torricella e Magione in direzione Perugia. È scorrevole la circolazione sul resto dei percorsi. Vi ricordiamo che in entrata a Roma chiude per lavori il tratto urbano della A24 tra il nodo con il raccordo anulare e lo svincolo di Tor Cervara dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina. La chiusura si ripeterà anche nelle prossime notti, fino al 9 maggio. Ed è tutto, torniamo tra un'ora. La Zanzara. Siamo qui con Gianluca Buonanno, che inviterà prossimamente il ministro Chieng a Varallo Sesi, è vero? Sì, sì, lo invito. Ah, veramente? Sì, senza i fratelli, però, perché sennò non so dove metterli. Ma no, dai, su. Dai, scherzo. Senza i fratelli. No, però no, io, guarda, veramente, io non ho problemi. Allora, però io spero veramente che sia un ministro che invece di delle solite ipocrisie, delle cose, faccia le cose che servono. E credo che quello della cittadinanza non sia un problema attuale, quindi secondo me è partito col piede sbagliato. Vabbè, buon anno, buona serata, grazie, un abbraccio. No. Un attimo, il suo collega, scusi, buon anno, il suo collega di partito ha detto sulla Biancofiore una cosa terribile oggi. Com'è che cioè? Si chiama quello della Lega a cosa? Prato? Parenzo, come si chiama quello della Lega a Prato? Il capogruppo della Lega a Prato ha detto una cosa terrificante. Cioè, terrificante. Cosa ha detto? Aspetti che lo trovo. Emilio Paradiso, il Biancofiore. Aspetti che lo trovo, fermatevi tutti. Il Biancofiore si è dovuta piegare ai finocchi e il nero di seppia la lasciano lì, riferito alla Chieng? Beh, che dice lei? Mamma. Oh mamma. È più che paradiso, dovrebbe chiamare inferno. Purgatorio, dai, stiamo buoni, purgatorio. Purgatorio, Ma per direi chi? Di sì. Per chi? Per questo? Sì, ci ha detto una cosa... Il Biancofiore si è dovuto piegare i finocchi, però un po' è vero, lei ci crede a questa cosa che la Biancofiore si è dovuta piegare alla Robby Gay, O no? Io penso che comunque... I gay fanno troppo le vittime, quello sì, perché sì. Cioè, io ne conosco tanti che sono così e vivono la loro vita tranquillamente, nessuno li disturba, ma non è che fanno sempre apparizioni, scenate, cose varie, perché cioè, mi sembra una cosa... Sì. Cioè, estremizzano troppo e estremizzano vogliono sempre troppo. Essere protagonisti, appena, non so, facciamo l'esempio del vostro programma, una zanzara... li punge c'è appunto noi siamo gay, c'hanno appunto la zanzara mamma mia, calma, perché questo succede dappertutto, cioè siamo tutti uguali, devono stare al loro posto, dice lei, no? Ma no, stare al loro posto, cioè non è perché se uno è gay o è lesbica ha dei diritti in più degli altri, invece loro gli continuano a dire che non hanno i diritti, che non hanno qua, che non hanno là. Io non ci credo questa cosa, perché ne conosco tanti, ci vado pure anche d'accordo, però non pure è che fanno d'accordo. Il vittimismo a 360 gradi, fa sempre così. Un abbraccio, ciao, buon anno, ciao Gianluca. Ciao. Non mi molesti moschito. Cristina da Venezia, buonasera. Buonasera. Dica. Sì. Pronto? Dica pure. Io sono Cristina, no? Sì. Volevo dire, io mi diverto tanto con voi. A volte sono d'accordo con Cruciani, alle volte sono con Parenzo. E questo non toglie che, anche se non sono d'accordo, a volte... dopo non mi diverte lo stesso. Vabbè, questo succede. Caso, poi? Sì, volevo parlare del discorso della pubblicità delle donne. Sì. E io penso che una pubblicità in sé non è che raggiunge il suo scopo, cioè fa vendere il prodotto. Il problema è che quando i bambini crescono con questa, con questo, diciamo... donna, sì, però scusi Cristina, all'oggetto da vendere. Cristina, scusi un attimo, adesso sono le 20:50, lei con questa cosa qua, con questa voce eccetera, mi ha fatto già mosciare tutto. Mi scusi lei, allora lei dice i bambini, i bambini che cosa crescono con, che cosa, con le donne nude davanti, ma basta con queste cose. Associato il corpo femminile a che cosa? Da vendere, alla pubblicità. Allora, un attimo è quello solo. Che è la pubblicità. Pronto, Paradiso? Sì. Cruciani, Radio 24, ciao. Pronto. Paradiso? Sì. Cruciani, Radio 24, ciao. Ah, buonasera. Che paradiso, amico mio paradiso. Ma cosa, che mi combini? Che mi combini? Cosa hai scritto? Cosa hai scritto? Che mi combini? Ma stavo scherzando, mica pensavo di sollevare un polverone a questo Ma ho capito, hai scritto una cosa terribile. O no? A parte un momento, cioè io ho scritto il bianco fiore che si inchina al finocchio. No, era la battuta così, ma l'altra non l'ho scritta io. Quella no? Dove c'è, no, quello è un post che io ho preso pari pari. Hai condiviso il biancofiore, si è dovuto piegare i finocchi e il nero di seppia la lasciano lì. Vabbè, hai condiviso, l'hai fatta tua praticamente. No, l'ho condivisa, però non l'ho scritta io, capito? Quindi, ho capito, però cambia, Sì, cambia. Tu che cosa ti sei limitato a scrivere, caro Emilio? Ho scritto il biancofiore. Che, che si è piegata, hai? La bianco fiore che si è piegata, visto che si trattava di fiori, a un altro tipo di verdura. Ai finocchi? Capito? Perché... e si dice in Toscana, voglio dire. No, ma io mica, tipica, mica ti sto dicendo niente. Voleva essere uno scherzo, una battuta. Chi mi segue alla mia bacheca privata sul post, spesso e volentieri faccio commenti ironici. Capito? Sì. Tutto lì, capito? Non è che, ma figuriamoci se io volevo sollevare un vespaio di questo tipo. Beh, hai fatto un casino. Pensavo però che i problemi degli italiani in questo momento fossero ben altri. No, perché dietro, capito? Però scusa un attimo, tu li chiami... Pensavo ai suicidi che la gente si ammazza. Vabbè, tutti però non è che uno può dire i problemi sono altri. Se uno scrive una cosa, poi se ne assume le sue responsabilità. Però dire finocchio, perché tu li chiami i gay, come li chiami? Finocchi? Ma non li chiamo finocchi. E finocchi è venuto fuori perché c'era il fiore. Era per quello. Bianco fiore finocchi. Bianco fiore finocchi, era per quello. Non è che io mi riferissi, capito, per quanto riguarda i gay. Li chiamo i gay. Ho anche degli amici gay. E nero di seppia? Nero di seppia, quello l'ho praticamente postato pari pari, così come mi è arrivato. Però, ti piace l'espressione nero di seppia, eh? Come? Ti piace l'espressione nero di seppia? Ma no, assolutamente. Io pensavo che il nero di fosse un piatto tipico, non so, ai risotto, agli spaghetti. Ma va, dai, su, sì. Dai, sì. Emilio. E poi lo scalerone l'ho messo insieme, che in occasione che ieri c'era la Juventus che ha vinto, bianco fiore con nero di seppia, bianco nero, e la Juventus ha vinto il 31esimo. Vabbè, scusami, però Emilio, Parenzo, noi ci crediamo a questa cosa, il bianco fiore. No, che chieda scusa almeno. Chieda scusa al ministro Chieng, su. Ma io ho chiesto scusa, ho fatto un comunicato ufficiale. Vabbè, quando ho visto che è successo sto polverone, senza volere, perché non volevo offendere nessuno, erano solo delle parole scherzose che si possono fare così. Però i finocchi, capito? Il nero di seppia, vabbè, dai. Io non volevo assolutamente offendere nessuno, tant'è che ho fatto un comunicato ufficiale che è stato diramato dal comune. Se qualcheduno si è offeso di queste battute scherzose, magari forse troppo, magari quello. Allora dimmi la verità, dimmi la verità, i gay tu li chiami finocchi, dillo, fino ogni tanto. Assolutamente no, io non ho utilizzato finocchio, che è un termine che si usa in Toscana, tipicamente toscano, per fare la battuta col bianco fiore. Col bianco fiore, va bene, comunque un leghista con l'accento toscano è sempre meraviglioso. A presto, a domani. Santo Domingo mi rompo i coglioni, usi... Ci si annoia, guarda, glielo dico, qui è bello, bellissimo, un paradiso terrestre. Dopo 10 giorni veramente ti sei rotto. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. Cala. Radio 24. La passione si sente.